spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità di Irene Zerbini. Un saluto, 8 e 12 minuti, un saluto da Irene Zerbini, 11 agosto 2014, la terza settimana di programmazione di Spunti di Vista, questa trasmissione con voi fino a fine agosto. Sembra che la desertificazione, è stata definita così, delle città sia un problema del passato. C'è un tasso di svuotamento anche qui a Milano visibilmente inferiore a prima. Allora un saluto particolare a tutti quelli che lavorano, a tutti i turisti delle proprie città che vanno a scoprire angolini e cortili che ignoravano, e a tutti quelli che il saluto non lo ricambiano, quelli che sembra che gli taglino lo stipendio se dicono buongiorno. Attenzione, perché nel corso di Spunti di Vista parleremo proprio di rapporti di lavoro, però prendendolo da un'angolatura particolare. Cioè leggere le mail di lavoro, gli SMS mentre si è in vacanza causa stress, si rientra al lavoro meno riposati e si è sempre on. E fin qui può sembrare un'affermazione come un'altra. In Germania però no, si è passati da questa considerazione ai fatti. Attenzione, perché aziende come Porsche o Deutsche Telekom hanno sentenziato che il dipendente non solo non deve, ma non può usare email aziendali dopo l'orario di lavoro. L'aveva deciso anche Volkswagen nel 2011. E i politici, che lì ancora stanno anche a discutere di discorsi sulla qualità della vita, hanno deciso che bisogna fare una legge. Poi non serviranno decreti attuativi. Quando c'è la legge, c'è la legge. Nel tempo libero ci si deve dedicare, ma al partner, ai figli, a se stessi vietato lavorare per legge. Dovrebbe essere una cosa naturale, no? Però è da mutuare anche in Italia. Voi conoscete il rischio dell'essere eternamente connessi? Ma la tecnologia, un'altra domanda, non doveva diminuire la mole di lavoro e migliorare la qualità della vita? Oppure ancora meglio, così potete dirceli all'800 24 00 24, questo è il nostro numero di telefono. Conoscete degli accorgimenti, per esempio, per non essere sempre disturbati da messaggi e mail? Possiamo condividerli. Ne discuteremo dopo le 9 a Spunti di Vista. E tra poco invece andremo in Francia. Perché? Perché c'è un filmato, tra l'altro premiato a Cannes, diffuso. È stato censurato, è un filmato nato in Italia, è stato concepito da Core Down, cioè il coordinamento delle associazioni impegnate a valorizzare i portatori i valori e l'esistenza delle persone portatrici di sindrome di Down. Questo filmato è ad altissimo impatto emotivo e ve lo faremo anche sentire, anche per radio mantiene la sua forza nonostante chiaramente l'immagine faccia molto di più. Ma su YouTube ha raggiunto, quando avevamo cominciato a pensare questa puntata, venerdì, 5 milioni di click. Ho controllato stanotte, siamo a 5 milioni e mezzo. Si intitola questo filmato Dear Future Mom, cioè cara futura mamma, ed è la risposta a una donna che aveva scritto alle associazioni un po' turbata perché era in gravidanza. Questa donna aveva scoperto di aspettare una piccola con la sindrome di Down e non sapeva cosa aspettarsi e cosa fare. La risposta è questo video ad alto impatto emotivo in cui si vedono solo persone down che parlano diverse lingue dire sostanzialmente: cara mamma, non avere paura, tuo figlio potrà essere felice come lo sono io. Ebbene, dopo 4 mesi di trasmissione in TV, cioè non subito, la Francia ha deciso di rimuoverlo. Perché? Perché potrebbe turbare la tranquillità delle future mamme. Ricordiamo che in Francia il 96% delle gravidanze con sindrome di Down si conclude con l'aborto, ma la campagna, e questo l'hanno sottolineato anche associazioni laiche, non aveva nessuna intenzione anti-abortista o di mancanza di rispetto verso la libera scelta della donna, questo è stato specificato. È stata una decisione censoria che fa discutere immancabilmente e noi ne parleremo con voi di tutto questo. Per partecipare a Spunti di Vista è facilissimo. Lo ripetiamo, 800 24 0024 per le vostre telefonate, poi per gli SMS 349 238 6666. Prima però Visti da fuori. Visti da fuori, l'appuntamento con i corrispondenti stranieri oggi ci porta in Irlanda. Buongiorno Patrick Agnew. No, buongiorno Irene. Non faccio commenti sulla bandiera perché già una volta nel corso di queste conversazioni precedenti, qualche anno fa, ci eravamo chiesti questa similitudine, no? Però avevamo giocato sul fatto che sembri un po' una bandiera italiana scolorita, ma scherzavamo. Lo sembro, spesso mi sbaglio anch'io. Senti Patrick Agnew, tu sei il corrispondente dell'Irish Times, ti sbagli con le bandiere, evidentemente seguendo la bandiera sei finito in Italia e sei diventato una sorta di Mr. Italy, si può dire così? Per l'Irlanda sì, perché io sono qua da 28 anni, perciò, e poi scrivi per l'Irish Times, che è il giornale, diciamo, più autorevole irlandese. Ma racconti quest'Italia e of course, cioè di corsa, ti hanno chiesto un pezzo su questo tanto declamato cambiamento in Italia e quindi ci siamo trovati sulla prima pagina dell'Irish Times con il tuo ragguardevole, è bellissimo questo pezzo, What's Up in Italy, è da segnalare. Prima di tutto, come cominci e cosa rispondi alla domanda che ti hanno fatto, poi chi te l'ha commissionato, insomma, i capi redattori esteri, i capi servizio che ti hanno chiesto, ma insomma si parla tanto di cambiamenti, cosa sta succedendo in quel paese, tu che sei lì Patrick, e tu che hai scritto? No, infatti mi hanno chiesto come va quest'anno in Italia, non è che mi hanno chiesto parlarci dei cambiamenti, perciò la mia risposta è, ma guarda, se c'è una cosa che è una parola che si sente spesso in questi giorni è quella del cambiare radicalmente e ho detto che si parla tanto di questo per quanto riguarda il Presidente del Consiglio Renzi e anche tanto per quanto riguarda il Papa Francesco, perché ovviamente il Vaticano e il Pontificato è molto seguito in Irlanda, ma essendo questo un pezzo d'estate, diciamo, per il nostro supplemento del weekend, ho cominciato con un'altra cosa. Io ho detto che non so quanto profondo saranno i cambiamenti che riesce a effettuare soprattutto Renzi e forse anche Francesco, questo è ancora da vedere, ma ho detto, vi posso dire una cosa cari irlandesi, che qui in Italia c'è un cambiamento fortissimo e che ha piovuto per tutta l'estate. Cioè il cambiamento climatico secondo te è l'unico cambiamento su cui metteresti la mano sul fuoco in Italia? Penso di sì, e per raccontare la storia. Bene, confortante. Abbiamo fatto bene a chiamarti. No, grazie. No, non sono un esperto di queste cose, ma l'impressione è quella. Se questo non è climate change, non so che cosa sia, cambio di clima. Almeno hai registrato un cambiamento climatico. What's up in Italy this summer? Mi chiede un ascoltatore, dove trovarlo? Sul sito dell'Irish Times. Sì, questo è il 349-238-6666. E non è stato tradotto per ora. No. Poi in questo articolo parli della tragedia di Refrontolo. Sì, ho dato quello come esempio dell'estate disastrosa, perciò dicendo proprio quello che. Queste cose succedono quasi tutti gli anni in Italia, ma di solito succede a settembre, a ottobre, a fine estate, ma il problema è che quest'anno non c'è stato un inizio estate, per non parlare del fine estate. Ma tornando allo scenario politico, gli irlandesi quanto conoscono il nuovo governo italiano, Matteo Renzi? No, infatti no, Irene, quella bella domanda. Gli irlandesi non lo conoscono per niente, ma l'hanno visto tanti miei colleghi, tanti irlandesi l'hanno visto per la prima volta quando lui è andato in un Parlamento a Strasburgo, al Parlamento europeo. E che impressione ha fatto? Ha fatto un'impressione molto positiva, un'ottima impressione, perché loro sono abituati a vedersi un leader italiano di una certa età, di un certo stile, e questa era una cosa tutt'altro, uno con meno di 40 anni, pieno di energia e che ovviamente già sa parlare tantissimo. Capacità dialettica. E tu però nell'articolo sì. Sei un po' critico. No, è molto critico direi. Molto critico, sì. Per quanto riguarda Renzi, diciamolo prima, the jury is still out, diciamo, un verdetto su quello che ha combinato lui, non si può dare adesso al governo di soldi 6 mesi. Ma tu parti dal fatto che non è stato eletto? Sì, che non è stato eletto, che è arrivato a potere grazie a un trigo di palazzo, ma anche io sono... Per gli stranieri è una cosa strana, che la sua prima mossa dal momento che ha preso il potere al Partito Democratico era andare a fare un patto, il famoso patto del Nazareno con Berlusconi, e per l'estero, per l'Irlanda, Berlusconi rappresenta tutto tranne il cambiamento radicale. Se vuoi cambiare l'Italia non cominci con Berlusconi. E bisogna poi leggerselo tutto questo articolo, perché è decisamente interessante. Da te, ora cambiando pagina, voglio sapere l'ultima volta che hai accompagnato amici irlandesi in giro per l'Italia, dove li hai portati e che cosa li ha stupiti? Quello è molto recente, la settimana scorsa, perché ho i miei cognati qui in visita adesso. Allora siamo andati a Pompei. E siamo andati adesso a Ravello, a Amalfi, Sorrento, ma soprattutto per andare a Pompei. E sai, chi ci va sa del quale sto parlando, ma Pompei è un posto incredibile, ma uno dei posti più visitati al mondo. Ma arrivi lì e i bagni pubblici fanno schifo. E la mia moglie si è lamentata con uno del servizio lì e questa persona ci ha risposto: ma guarda, la signora che pulisce i bagni viene solo fino a mezzogiorno. Grazie per averci segnalato. Grazie per averci segnalato questa cosa, no, non da poco, perché poi sono le cose che rimangono impresse ai turisti. Si va in Irlanda, gli italiani si lamentano del fatto che manchi il bidet, se proprio dobbiamo stare su questo tipo di temi. E che altro è stato colpito? Che altro ha colpito i tuoi amici? Scusa. Pompei ovviamente è un posto favoloso, ma si potrebbe fare molto, ma molto di più. Io inviterei chi gestisce un posto come Pompei a andare in giro un attimino nel mondo, vedere come gli altri paesi gestiscono le loro ricchezze. Se sto parlando di posti come Hampton Palace in Inghilterra, Londra, vai lì e trovi che c'è un gruppo di attori che fanno scene della vita di Enrico VIII, sì. Sai, fanno un altro, o ci sono filmati, ci sono fanno un certo angolo, rifanno tutto come era 2000 anni fa. Ma a Pompei hai l'impressione che abbiamo pulito un pochino e è rimasto così e non facciamo più niente. E la tua indicazione è quella di un corso proprio manageriale obbligatorio per tutti, per la gestione dal punto di vista anche industriale, sì, dell'industria, appunto, del turismo. Patrick Agnew, naturalmente racconti quest'Italia così e i chiaroscuri di questo paese agli irlandesi. Noi invece abbiamo scoperto in una puntata dedicata al Good Country Index, cioè qual è il paese che nel mondo ha avuto l'impatto più positivo, parlando di reddito pro capite per abitante, dedicato al fuori, cioè non al benessere interno dei propri abitanti, ma al benessere del resto del pianeta? Un titolo ambitissimo, è stato vinto proprio dal tuo paese, dall'Irlanda. Sì, ma se vai a dire questo agli irlandesi, non so, ridono tanto, credo, perché l'Irlanda ha ancora problemi. Per esempio la disoccupazione è in calo anche per il fatto che tanti irlandesi continuano a emigrare. L'anno scorso era al ritmo di 1000 alla settimana, non so qual è il ritmo quest'anno, ma continuano a emigrare perché l'economia si sta riprendendo, ma molto lentamente. E naturalmente anche tu, come tutte le persone dotate di spirito critico, sei molto critico anche verso la realtà da cui vieni. Patrick Agnew, è sempre un grandissimo piacere parlare con te, Mr. Italy. Grazie, naturalmente. Grazie per il tuo tempo e per essere stato con noi a Visti da Fuori. Allora, ancora una volta, questo articolo che parla dell'Italia ed è un po' un excursus onnicomprensivo, uno spaccato della storia più recente d'Italia, vale la pena di essere letto da cima a fondo, è sull'Irish Times, si intitola What's Up in Italy This Summer e lui è la firma, l'abbiamo sentito, il nostro corrispondente. Noi parleremo tra poco invece di una decisione francese questa volta, quella di censurare un video interpretato non da attori ma da persone normali, però portatori di sindrome di Down, e queste persone spiegano la loro felicità. Può turbare, attenzione a questo video, le future madri e interferire con la loro volontà di scelta. Questo almeno quanto decretato dalla Francia. Spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità. 8:30, ancora insieme a Spunti di Vista, Irene Zerbini, rinnovo il buongiorno. E, scusate se sorrido, ma mi dicono che of course non significa di corsa, come no? Cioè, non potete farmi attaccarmi su una convinzione così radicata. E che vuol dire allora of course? Non significa di corsa? No, adesso scherzi a parte, stavamo scherzando col nostro corrispondente, perché spesso con i corrispondenti anglosassoni ci soffermiamo sull'inglese da toro seduto, come lo chiama un autore, questo vezzo degli italiani di tradurre letteralmente, no? A bag of study, che significa una borsa di studio, I make you street, ti faccio strada, e quindi of course su questo filone è ovvio che venga tradotto come di corsa. Scherzi a parte, oggi parleremo della fuga dalle mail. Parleremo di questo dalle 9, il tema successivo di Spunti di Vista. Infatti in Germania una proposta di legge per vietare ai dipendenti di essere raggiunti dalle email da lavoro, dagli SMS. E questo perché? Per migliorare la qualità della vita ed erodere un po' tutto quel picco di malattie legate allo stress, all'essere sempre connessi. È un esempio da seguire, eh? Stress elettronico dunque al centro del segmento di Spunti di Vista, che scatta dopo il GR delle 9. Ora no, ora arriviamo al tema che vi abbiamo segnalato, abbastanza sconcertante. Quanto è sconveniente, ci siamo chiesti, un video in cui a prendere la parola sono le persone con sindrome di Down? E c'è stata questa clamorosa decisione in Francia da parte dell'autority di sorveglianza del sistema audiovisivo. Cosa si è deciso? Non si può trasmettere il video di Our Future Mom, e tra poco ve lo proporremo, in cui si valorizza l'umanità delle persone affette da trisomia 21, cioè la più comune anomalia cromosomica nell'uomo, molto più conosciuta come sindrome di Down. Buongiorno e benvenuta a Martina Fuga, buongiorno. Buongiorno a tutti. Lei, Martina, è membro di Core Down, cioè il coordinamento nazionale delle associazioni per le persone con sindrome di Down, ed è l'associazione che ha realizzato questo video assieme ad altre 6 associazioni internazionali. E poi lei l'abbiamo vista perché è protagonista del video, è la prima mamma che si vede, giusto? Sì, giusto. La prima, quindi ho anche visto il suo volto. E lei è la mamma di Emma, una delle bambine. Sì. È un video con 5 milioni e mezzo di click su YouTube, che quindi non è destinato, cioè sembrava all'inizio, quando l'avete concepito, a chi era rivolto? Ma la nostra intenzione era che fosse rivolto a tutti, la nostra speranza era che fosse rivolto a tutti, perché speravamo di parlare a quante più persone possibili, perché il nostro obiettivo è proprio questo, quello di raccontare chi siamo e chi sono i nostri figli. E i nostri figli desiderano raccontarsi, quindi il nostro obiettivo era arrivare a quante più persone possibili. Poi non speravamo questo grande successo mediatico sicuramente. E lo spot, ha decretato l'authority, era inappropriato perché, e questo dopo averlo trasmesso per mese, perché può causare problemi di coscienza alle donne che hanno fatto scelte di vite differenti. E lì si è schierata mezza Francia, laica e cattolica, difendendo il diritto al pluralismo, il diritto all'espressione, dicendo non c'era nessun intento, come dire, di puntare il dito contro la libertà di scelta della donna. Ma prima di parlare ve lo proponiamo, così che possiamo capire, anche se per radio ovviamente perderemo l'effetto dell'immagine, è un filmato ad alto impatto emotivo, ora voi provate a immaginare naturalmente volti di persone che parlano da tutto il mondo, quindi con lingue diverse. Sentiamo la versione radiofonica che abbiamo confezionato per voi. Il 9 febbraio abbiamo ricevuto un'email da una futura mamma. Aspetto un bambino. Ho scoperto che ha la sindrome di Down. Ho paura. Che vita avrà mio figlio? Oggi noi le rispondiamo così. Cara futura mamma, non avere paura. Tuo niño potrà, tuo figlio potrà fare un sacco di cose. Potrà abbracciarti. Potrà correrti incontro. Potrà parlarti e dirti che ti vuole bene. Potrà andare a scuola, come tutti. Potrà imparare a scrivere e potrà scriverti se un giorno sarà lontano. Perché sì, anche lui potrà viaggiare. Potrà aiutare suo padre ad aggiustare la bici. Potrà lavorare e guadagnare i suoi soldi. E con quei soldi potrà invitarti a cena fuori. O affittare un appartamento e andare a vivere da solo. A volte sarà difficile. Molto difficile. Quasi possibile. Ma non è così per tutte le mamme? Cara futura mamma, tuo figlio potrà essere felice come lo sono io. E tu sarai heureux. E anche tu sarai felice. Vero, mamma. Le persone con sindrome di Down possono vivere una vita felice anche grazie a tutti noi. Ora ci si chiede, con tutto quello che si vede in televisione, in effetti con quelle alte lezioni di filosofia e arte che digeriamo ogni giorno, un video così era proprio da eliminare, da censurare, è chiarissimo. Chiara Saraceno, buongiorno, benvenuta. Buongiorno, buongiorno. Filosofa, sociologa, una delle più note sociologhe italiane, e Chiara Saraceno è sicuramente dalla parte della donna per la libertà di scelta, immagino. In questo caso che idea si è fatta? Doveva prevalere la libertà di espressione o le considerazioni dell'authority francese? No, mi sembrano del tutto fuori luogo le considerazioni dell'authority francese, perché problemi di coscienza le donne ce le hanno, cioè le donne incinte che devono prendere una decisione rispetto se proseguire o no una gravidanza, ce le hanno sia nel senso che nell'altro, sia nel senso di accettare, di portare avanti la gravidanza, sia nel senso di invece di mettere al mondo un figlio con problemi, o qualsiasi figlio, cioè come dire, rispetto al futuro, a un figlio che verrà, c'è sempre un problema di coscienza, ce la farò, non ce la farò, sarò brava, non sarò brava, che destino gli fa. Per cui non riesco proprio a capire questo tipo di motivazione, che mi sembra in realtà molto più orientata a dire che è meglio scegliere in un modo piuttosto che nell'altro. Infatti questo è stato sottolineato, una sorta di spinta all'eugenetica, così è stato interpretato da molti critici di questa decisione. Ma ci chiedevamo, lo Stato che posto può avere in decisioni di questo genere, decidendo addirittura di spostare, di eliminare completamente, non di spostare, non è che è stato messo in un'altra fascia, di eliminare dalla televisione un filmato di questo tipo. abbiamo perso Chiara Saraceno, ed è una domanda che naturalmente giriamo a Martina Fuga. Ma secondo me lo Stato non deve avere nessuna posizione in questo senso, ma chiaramente in Francia è una posizione politica, è chiaro che stanno usando questo argomento, lo stanno strumentalizzando per ragioni politiche, cioè si stanno facendo la guerra su diverse posizioni, una di queste è l'aborto, e quindi usano questo mezzo in questa direzione. Mara da Napoli, buongiorno. Buongiorno, eccomi qua. Quindi passiamo, buongiorno. Martina, da una mamma a un'altra mamma. Lei ci ha contattato? Sì. Dica. Allora, io, mio figlio Yuri, ha 25 anni e ci vorrebbe una trasmissione intera per parlargli di lui. Io ringrazio il cielo di non aver fatto l'amniocentesi, perché adesso mi ritrovo un figlio meraviglioso, ma non è retorica. È un figlio meraviglioso, allegro, felice, non mi dà problemi tra virgolette, certo non parla molto bene, ha stento a capirlo a volte, e non sono d'accordo con il fatto della Francia. Allora, se una mamma dice avrò un figlio down, che farò? Ma potreste avere anche un figlio stupratore, potreste avere un figlio assassino, allora sono esattamente comunque le considerazioni che abbiamo fatto in redazione mentre preparavamo però... esatto, cioè ci sono cose terribili che potrebbero fare i tuoi figli, allora... e allora come fai ad avere la garanzia assoluta? Ma senta Mara, al di là di questo di questa sua considerazione bellissima, che tra l'altro ci stanno facendo via sms al 349-238-6666 tantissimi genitori, mi insegna, Patrizia ci scrive parlando di Leo, suo figlio, ragazzino down, mi insegna tutti i giorni il valore delle piccole cose quotidiane, ogni conquista è un nostro successo. Ma se io avessi oggi lo so perché ho avuto esperienza, magari avessi saputo, dice Patrizia, in gravidanza di aspettare un bambino down, magari avrei optato per l'opzione aborto terapeutico, non sapendo cosa mi sarei perso. Quindi è possibile che ancora nel 2014, Mara, le chiedo, dobbiamo informare su questa, come dice lei, possibilità di avere un figlio meraviglioso, su questa possibilità di essere felici? Sì. Dei problemi, è logico, perché c'è un ritardo, nel senso, se fa una cosa la fa sbagliata, la famiglia deve insegnargli, e le persone non devono, si girano ancora a guardarlo. Ancora qui, io sto a Napoli, quando passiamo per strada ci sono ancora gli ignoranti che lo guardano, io dico che c'ha la coda, cioè bisogna dare a queste persone che lo guardano. Io mi arrabbio ancora dopo 25 anni, è un ragazzo meraviglioso come tutti i down, chi è più intelligente, meno intelligente, chi è più svelto. Mio figlio è un ragazzo che quando lo vedo dice ma va in palestra, no, perché è tenuto ben, dipende dalla famiglia, è una spugna il cervello dei ragazzi down, sanno fare tutto, basta insegnarglielo, lo fanno con calma, con ritardo, perciò si chiama, ma è intelligentissimo mio figlio, poi non so gli altri. Anticamente li tenevano chiusi in casa, e forse una mamma che aspetta un figlio down evidentemente pensa che ma che vergogna, chissà che fa, no, devi uscire, c'ha gli amici, vai ai concerti, adora la musica, è pieno di giochi elettronici, basta dargli un input e faranno tutto. Solo una cosa, che qui a Napoli non c'è lavoro per loro, a Napoli è solo questo. Ma poi la sua giornata è piena, alle 2 di notte lo vado a dico di venire a dormire, dice no, c'ho da fare, fa sempre qualcosa. Mara, grazie, perché lei ci ha, è come se ci avesse acceso una telecamera nella vostra vita, e quindi grazie davvero per questo filmato così via radio che ci ha mandato. Grazie a Napoli alla mamma, si chiama Mara. Ci spostiamo a Bolzano. Pronto, buongiorno, a Bolzano, chi buongiorno. C'è? Come si chiama lei? Giancarlo. Dica Giancarlo. Ma io ho l'esperienza di due amici che hanno avuto figli down, sono due esperienze bellissime, di famiglie bellissime, e devo dire che il mondo, se fosse popolato da tutte persone down, sarebbe molto migliore, perché non hanno aggressività, sono buoni, lavorano, hanno una lentezza di capo diversa, una velocità diversa rispetto agli altri, ma fanno le stesse cose. Poi vorrei dire che l'esperienza inserita nel mondo del lavoro, parlo dell'Alto Adige, sì, è molto avanti, nel senso che addirittura Alto Adige è un bar gestito da ragazzi di sindrome di Down, sono inseriti nel mondo del lavoro in tutte le strutture, sia nell'artigianato che nelle mense, cose di questo genere qua. E questo è assolutamente un input che deve essere mutuato, deve essere una priorità politica. Grazie a Giancarlo da Bolzano. A livello regionale si parla sempre di questi scandali, di eccesso di costi delle regioni, ma poi dovrebbero essere impegnate soprattutto nel portare avanti questo tipo di politica. Abbiamo recuperato Chiara Saraceno e adesso, oltre a queste testimonianze belle che abbiamo raccolto all'800 24 00 24, e continueremo a farlo, le vorremmo chiedere, professoressa Saraceno, sembra che ancora esista l'imperativo che per essere accettati bisogna vivere in perfetta salute, sotto canoni anche estetici di un certo tipo, no? Perché per addirittura in Italia c'è stata la commissione bioetica che ha dovuto pronunciarsi contro gli interventi di chirurgia estetica sui Down minorenni, perché c'era chi voleva imporre canoni estetici di cosiddetta normalità. Sì, no, questo è un po' estremo nel nostro paese, anche se non solo qui, certamente è un problema per gli individui, anche per i genitori, ma non riguarda soltanto i bambini Down, cioè qualsiasi bambino e qualsiasi adulto sia un pochino fuori standard si sente meno amato, si sente meno normale, meno accettabile e così via. Certamente occorre sviluppare, ma in parte si è sviluppato, non credo che in Italia ci sia questo atteggiamento, soprattutto a livello ufficiale, così negativo come invece è successo in Francia, che esatto, noi spesso prendiamo come esempio di paese molto più civilizzato del nostro. Non vorrei però a questo punto che dessimo l'idea che non ci sono problemi, cioè è bellissimo, questo video è bellissimo, trovo che sia veramente bellissimo. Problemi li abbiamo soprattutto dal punto di vista di linea oggi, non riusciamo a completare la conversazione con Chiara Saraceno. E quali sono i problemi in Italia? Lo chiederemo tra pochissimo a Martina Fuga, una delle mamme che compare in questo video. Prima però la situazione del traffico sulle strade. Spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità. E ancora buongiorno da Irene Zerbini, e stiamo parlando della decisione francese di bandire dalla televisione un video in cui a prendere la parola sono persone con sindrome di Down. In Francia si è deciso da parte dell'autority di sorveglianza del sistema audiovisivo di bandirlo, di censurarlo, non si può trasmettere questo video, si intitola Dear Future Mom. E perché potrebbe interferire con la tranquillità di coscienza di donne che hanno scelto diversamente, cioè di donne che, avendo appreso durante la gravidanza di aspettare un bimbo o una bimba con sindrome di Down, hanno deciso di andare per la loro strada con l'aborto terapeutico. Ora, Martina Fuga, lei che è una mamma che compare in questo video, è molto bello il passaggio anche in cui una delle persone dice: a volte sarà difficile, attenzione, di Afro Future Man sarà difficile, anche molto difficile. E ci invitava a riflettere la filosofa e sociologa Chiara Saraceno: attenzione, non è che non ci siano assolutamente problemi, soprattutto in Italia, legati all'essere genitore di un bambino con sindrome di Down, o un uomo, una donna, perché poi naturalmente i genitori che abbiamo sentito hanno anche figli adulti. E forse è il caso di augurarsi interventi statali a sostegno delle famiglie che abbiano casi particolari, più che interventi di censura. Certo, allora i problemi ci sono non solo in Italia, le difficoltà di una famiglia in cui nasce un bambino con sindrome di Down non vanno negate. Questo video non lo voleva fare, voleva essere anche realistico, tant'è che c'è quel passaggio in cui si ammette la difficoltà e addirittura il bambino dice: a volte è quasi impossibile, no? Perché comunque momenti di difficoltà e di dolore ci sono e non vanno negati, ma certamente Le cose su cui noi combattiamo e su cui vogliamo lavorare sono indubbiamente l'inclusione scolastica, perché un inserimento scolastico per i nostri figli è assolutamente fondamentale. Hanno bisogno di essere inseriti in classi, lavorare con i compagni, crescere con loro e studiare alla pari di tutti gli altri bambini, con le difficoltà che la loro condizione gli procura indubbiamente. Poi, a che punto siamo su questo in Italia? Ma in Italia siamo, dal punto di vista legislativo, in una delle situazioni migliori del mondo. Perché, no, in pratica poi. Nella pratica ci sono ancora difficoltà, ci sono delle situazioni di inclusione ideali e delle situazioni in cui si fatica ad avere un insegnante di sostegno per le ore necessarie, perché i nostri figli hanno bisogno di un insegnante di sostegno. Si fatica a farli lavorare in classe, tante volte i bambini vengono portati fuori dalle classi perché non riescono a gestire gli insegnanti, situazioni più o meno difficili, perché i nostri bambini non sono tutti uguali, questo non si può negare, come tutti i bambini peraltro, come tutti i ragazzi, quindi spesso invece di farli lavorare in classe o in piccoli gruppi con i loro compagni vengono portati fuori dalle classi a fare un lavoro individuale. Alcune volte il lavoro individuale può servire, soprattutto crescendo, magari per rafforzare certi apprendimenti. Però dovrebbe prevalere l'attenzione, come dice giustamente lei, all'inclusione, anche perché negli anni 70-80, paradossalmente in Italia, c'erano realtà più avanzate che adesso, cioè si discuteva di più nelle scuole del cambiamento e della necessità non solo per il bambino down di essere in classe, ma per gli altri. Di avere esperienza, familiarità con realtà che non fossero esattamente come le loro, quindi anche il valore educativo di realtà di questo tipo veniva discusso nella pedagogia di più a quei tempi che oggi, dove si parla, c'è molta attenzione purtroppo ai tagli e ai costi. Le giro una domanda, non so se cattiva, di un ascoltatore, però che molto spesso vi sarete sentiti fare nell'associazione, al 349-238-6666 è arrivato questo sms che dice: cosa sarà di loro quando i genitori non ci saranno più? Come si può dire che saranno felici? Beh, questo è un grandissimo tema, cioè il dopo di noi è uno dei temi che più ci turbano e che più ci angosciano, ma questo vale per tutti i figli, è indubbio, vale per tutti i figli, certo per i nostri di più. Ma quello su cui noi genitori lavoriamo, le associazioni lavorano con forza e con molta attenzione, è creare le condizioni. Noi lavoriamo per anni sull'autonomia dei nostri figli, da quando nascono a quando diventano adulti, proprio per renderli autonomi. Ci sono dei ragazzi down, con sindrome di Down, che oggi sono in grado di sostenere una vita autonoma. Riescono a lavorare, possono lavorare, ci sono delle realtà anche di autonomia abitativa. Beh, ha commosso il mondo anche la scena dei due ragazzi down che si sono sposati recentemente. Sì, certamente, bisognerebbe accompagnare questi figli, questi adulti, perché ormai sono adulti, a creare un percorso di autonomia che arrivi fino anche alla gestione della vita poi quotidiana, del dopo essersi sposati devono avere una casa, per esempio c'è stata una grande polemica anche su questo, no? Però l'accompagnamento, la progettualità delle associazioni va proprio in questa direzione, cioè di accompagnarli fino ad avere una vita autonoma. È un discorso difficile, lo dimostra anche la storia che ha fatto il giro del mondo all'inizio di questo mese, quella che riguarda una donna povera thailandese, pagata 10.000 euro da una coppia australiana perché per prestare l'utero, e si è vista lasciata in consegna uno dei due gemellini che ha portato in grembo perché sarebbe nato con sindrome di Down. E la coppia le aveva chiesto di abortire quel feto, lei si è rifiutata e allora loro non l'hanno ritirato, però le hanno dato 5.000 euro in più o meno, no? Commovente, Martina Fuga. È drammatico, però la vita è questa, lei ha fatto una scelta, e la porterà avanti, avrà questo bambino e se ne occuperà lei, mi auguro. In qualche sì, maniera. Ma è significativo della situazione che ancora esiste nel mondo rispetto a certi canoni. Mi è piaciuto molto l'urlo, l'ho letto su un articolo di uno della vostra associazione, che al telefono si è sfogato dicendo tanto saremo tutti handicappati prima o poi, ma è ancora molto difficile l'accettazione di ogni forma di disabilità. 800 24 00 24, disabilità che ci ricordano subentra anche per incidenti o malattie come il cancro, cioè davvero nessuno può dirsi immune. Giovanni, buongiorno, da dove chiama? Buongiorno, da Padova. Dica. È un genitore? Allora, sì, sì, sì, sono un genitore, sì. Io ho avuto l'opportunità di lavorare, di collaborare, insomma, di dare una mano con Special Olympics qualche anno fa e poi anche con delle cooperative, dei centri diurni qui vicino a dove abito, che appunto si occupano di ragazzi portatori di handicap vari, tra cui anche i downiani. Io mi complimento, per me per lo spot potrebbe essere tranquillamente messo in onda, insomma non vedo nessun problema, però secondo me il problema è un altro. Che quale dica? La scelta spetta appunto alla mamma e al papà, e al giorno d'oggi dal mio punto di vista c'è, cioè, tra le varie crisi, questa crisi che è quella della famiglia, cioè un aspetto fondamentale che sia downiano, che possa avere mille altre tipologie di malattie che ormai al giorno d'oggi, grazie a tutta una serie di esami, si riescono a conoscere per tempo, è una decisione che spetta la famiglia. Assolutamente, e su questo non si discute. Fino a quando manca una cultura, che una volta c'era e che a mio avviso è stata persa, della cultura del rispetto della famiglia, dell'importanza del ruolo della famiglia, secondo me, tanti che prenderanno la scelta di portare avanti una gravidanza con un figlio downiano o altre trisomie, purtroppo dopo resteranno delusi, perché questo paese, quando ho sentito il signore da Bolzano, dico l'ennesima volta che quelli di Bolzano o di quella zona hanno sempre delle fortune in più, è che invece da noi poi ti devi arrangiare per tutto. Allora un genitore saggio, padre e madre, devono dire: noi siamo in grado poi di accompagnarlo, di scegliere un'associazione, di avvicinarlo, di dargli tutto quello che in più, oltre a un figlio normale, dovremmo essere in grado di fare? Se una risposta ha anche un 1% di no, però questo è il mio punto di vista, un genitore deve essere anche serio, deve essere anche cosciente di quello che fa. Beh, questo Giovanni, chiaramente la scelta della famiglia, dei genitori, non si giudica, non è sindacabile, non è questo l'oggetto. Ci chiedevamo, rispetto invece alla censura di questo video, quanto questo video potesse turbare le coscienze, potrebbe considerarsi offensivo con tutto ciò che si vede oggi in televisione. Semplicemente sembra che sia ancora difficile, abbattuti tanti tabù, accettare quello della disabilità. Spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità. Rieccoci in diretta con Spunti di Vista. Si sta discutendo della decisione francese di censurare un video interpretato non da attori, in questo caso da persone normali, non attori, ma con la sindrome di Down. Cosa succede in questo video? Queste persone spiegano la loro felicità. Ebbene, in Francia l'Authority per il controllo del sistema audiovisivo ha portato a spiegazione della sua bocciatura, perché ha deciso, dopo 4 mesi di messa in onda, di rimuoverlo dalla televisione, da tutte le televisioni francesi, perché poteva disturbare le coscienze delle donne che nel rispetto della legge hanno fatto scelte diverse di vita personale. Ora, naturalmente, e Core Down, cioè l'associazione delle associazioni dei portatori di sindrome di Down e chi ci lavora anche come medico, hanno dichiarato ufficialmente: noi non siamo contrari alla diagnosi prenatale, non avevamo nessun intento antiabortista con questo video, ognuno fa le scelte che vuole, crediamo che la diagnosi prenatale debba essere sempre più accurata proprio perché poi le persone abbiano la possibilità di fare una scelta più libera possibile, ma abbiamo comunque diritto di esprimerci perché noi non possiamo dire da genitori di essere felici. E stiamo ascoltando anche voi all'800 24 00 24, questo è il numero di telefono. Andiamo dalla prossima ascoltatrice. Pronto, Anna Maria, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, dica. Senta, io volevo rispondere intanto al signore che ha detto che se c'è anche una risposta negativa nelle domande che un genitore si deve fare, deve abortire. Allora, io sono una di quelle che probabilmente se avesse saputo 25 anni fa, anzi quasi 26, di aspettare un bambino Down, per quello che vedevo intorno a me, probabilmente avrei abortito. E non avrei potuto fare sciocchezza più grande. Oggi mio figlio ha 25 anni, è un ragazzo perfettamente inserito, che ha preso sul PEI, quindi sul suo piano di studi, un diploma superiore, che ha fatto 3 anni di tirocinio, che sta facendo adesso, purtroppo i tirocini li hanno complicati, andrebbero pagati. Io chiamo da Matera, noi siamo in una zona depressa economicamente, non dai tempi dell'ultima crisi ma ancora da prima, quindi non ci sono possibilità di inserimenti diversi, ci siamo inventati i progetti di volontariato presso gli enti pubblici, presso le aziende private, in maniera che loro possano stare fra la gente. Non è facile, io non sto parlando del mulino bianco, bisogna rimboccarsi le maniche e cominciare dall'inizio ad accettare noi i nostri figli, perché dobbiamo poi insegnare agli altri a non trattarli come degli eterni bambini. Loro sono persone semplici, non sono degli eterni bambini, hanno le loro esigenze, hanno le loro voglie, i loro progetti, e non è vero che sono tutti uguali, sono tutti diversi, ognuno di loro ha delle caratteristiche diverse che vanno sfruttate. E adesso in collaborazione con l'IPD nazionale, noi sezioni provinciali stiamo lavorando proprio perché si possa tenere presente e tener conto anche nei tirocini e negli inserimenti lavorativi di quelli che sono i loro desideri, delle cose verso le quali sono portati. Anna Maria, io non l'ho interrotta perché veramente lascia così far riflettere moltissimo tutto quello che lei ci ha raccontato, ma lei ha esordito dicendo: se io avessi saputo 25 anni fa che il figlio che stavo per avere era Down, forse avrei fatto un'altra scelta. Ora, visto che appunto anche lei ha imparato dalla sua esperienza, se la sente di giudicare chi giudica, nel senso, se lei non avesse in prima persona avuto questa esperienza, capisce che c'è ancora molto da fare nel campo dell'informazione. Assolutamente sì, ma non mi sento di giudicare né chi decide di portare avanti una gravidanza né chi decide di non portarla avanti. Per me bisogna essere assolutamente liberi di scegliere, e dobbiamo anche smetterla di dire: però chi ha deciso potrebbe essere, chi ha deciso di interrompere la gravidanza intendo, potrebbe essere scioccato dal video. Assolutamente no, è un punto di vista assolutamente sereno, tranquillo. E poi cioè, chi ha a che fare con le persone Down perché ce l'ha in famiglia, ma chi ha a che fare adesso perché ce l'ha in ufficio, perché ce l'ha al ristorante, perché nelle organizzazioni di volontariato come che lei ci ha citato. Grazie per questo ennesimo spunto che parte da un'esperienza in prima persona. Chiara Saraceno, sono tantissimi e molto civili, devo dire, non solo gli interventi ma anche le considerazioni di chi è coinvolto in prima persona con realtà di questo tipo. Rimane la decisione dell'autority francese. Secondo lei questo tipo di video che coscienze poteva turbare? Ma può darsi, ma voglio dire, turbare le coscienze di per sé non è una cosa negativa, nel senso che può porre, introdurre uno spunto in più di riflessione. Come dicevo all'inizio, penso che qualsiasi donna che decida di non tenere, di non portare avanti una gravidanza per qualsiasi motivo, si interroga, si pone dei problemi, ha dei problemi di coscienza di qualsiasi tipo, sia che decida poi alla fine di non portare avanti, sia di portare, invece di portarla avanti, in qualsiasi circostanza. Quindi questo è un elemento di conoscenza in più, di riflessione in più. Abbiamo bisogno di essere turbati, devo dire, in generale, dal fatto che appunto le persone down possono oggi, non un tempo, crescere, vivere più a lungo, diventare autonome, così come dobbiamo essere turbati e riflettere sul fatto che avere figli in questa, nella nostra società, è una scelta spesso solitaria e non sostenuta, a prescindere dal fatto che siano i down o no. Una mamma prima ricordava il programma Dopo di noi. Io facevo a suo tempo la consulente della ministra Turco, quando era ministra degli affari sociali, che aveva iniziato questo programma, di cui oggi ho l'impressione sia sparita traccia, non ci sono sostegni. In cosa consisteva questo programma? Non tanto i bambini, non riguarda tanto le persone down, perché ci sono disabilità molto, ma molto più gravi, che pongono davvero un problema ai genitori sul come i figli potranno continuare ad andare avanti. In cosa consisteva questo programma, scusi professore? Un programma di sostegno all'autonomia, di case protette, cioè di accompagnamento dei genitori, ma soprattutto dei figli disabili con qualsiasi tipo di disabilità, ad avere un dopo anche quando i genitori non fossero più lì a sostenerli. Abbiamo bisogno di essere turbati. Grazie mille a Chiara Saraceno. Vorrei concludere con Martina Fuga, una delle mamme protagoniste del video. E questa censura, diciamo così, questa rimozione di questo video vi ha amareggiato, vi ha colto naturalmente di sorpresa, ha anche suscitato degli aspetti positivi, perché si è aperta una discussione su una pagina spesso poco dibattuta. Certamente, ci ha lasciato molta amarezza, soprattutto perché si nega il diritto di esprimersi ai nostri figli, perché quello che hanno fatto i nostri figli in questo video era raccontare la loro vita, la loro esperienza e come si sentono, no? Io mi chiedo proprio, ma davvero non c'è una mezza misura tra fare una scelta libera, e nessuno di noi la nega, ma tra poter esprimere la nostra serenità nella nostra situazione familiare, nella vita dei nostri figli. È questo che una scelta di pluralismo, insomma, vi aspettavate, esatto, dall'autority francese. Ma proprio questo video in Italia è mai andato in onda? Certo, certamente, è andato in onda, abbiamo avuto il supporto di tutte le televisioni in questo senso, è andato in onda dei telegiornali e ovviamente va in onda nella rete, così come in Francia, è possibile vederlo tranquillamente. Infatti trovo ridicola anche questa decisione, perché comunque il video è a disposizione di tutti e in tutto il mondo, comunque, indipendentemente dalla decisione. Sì, sì, una censura poi vetrina, una censura di facciata, sì, perché di fatto una censura politica, fine. Basta cliccare su YouTube per trovarlo. Intanto grazie anche a Martina Fuga, andiamo grazie allora ancora una volta su YouTube, Dear Future Mom. Il 9 febbraio abbiamo ricevuto un'email da una futura mamma. Aspetto un bambino, ho scoperto che ha la sindrome di Down, ho paura. Che vita avrà mio figlio? Oggi noi le rispondiamo così. Cara futura mamma, non avere paura. Tuo figlio potrà fare un sacco di cose. Potrà baciarti. Potrà correrti incontro. Il porrà. Potrà parlarti e dirti che ti vuole bene. Il porrà Potrà andare a scuola, come tutti. Potrà imparare a scrivere e potrà scriverti se un giorno sarà lontano. Perché sì, anche lui potrà viaggiare. Potrà aiutare suo padre ad aggiustare la bici. Potrà lavorare e guadagnare i suoi soldi. E con quei soldi potrà invitarti a cena fuori. O affittare un appartamento e andare a vivere da solo. A volte sarà difficile. Molto difficile. Quasi possibile. Ma non è così per tutte le mamme. Cara futura mamma, tuo figlio potrà essere felice come lo sono io. E tu sarai heureuse. E anche tu sarai felice. Vero, mamma. Le persone con sindrome di Down possono vivere una vita felice anche grazie a tutti noi. Diciannove, cambiamo pagina completamente per dedicarci allo stress. Chi ne è immune, ci segnala un ascoltatore, ma forse qualcuno c'è adesso, non pensiamo sia un fenomeno invasivo, ma non sarà totalizzante, ci sarà chi se l'è cavata anche da questo questa possibilità. 800 24 00 24 per le vostre esperienze, parliamo di stress elettronico. Se invece volete inviarci un sms 349 238 6666. Lasciamo la Francia perché ci spostiamo in Germania, dove a parlare di stress elettronico non sono solo psicologi o coach del lavoro, ma sono i politici in persona. Se ne sta diventando una questione nazionale, la questione del lavoratore che in ferie o dopo l'orario stabilito si porta a casa i problemi. E come arrivano i problemi? Tramite email, naturalmente, tramite sms, email che ti inseguono anche quando dovrebbe essere il tuo tempo libero e dovresti avere la possibilità di concentrarti, questa è l'invocazione dei politici tedeschi, su te stesso, sui figli, sulla crescita personale o familiare, a seconda di quello che ti interessa, sicuramente non sul lavoro. E chi lo fa d'ora in poi, chi farà questa cosa di inseguire il lavoratore con l'email che disturba, con il carico di lavoro quando non dovrebbe esserci, potrebbe essere multato e subire una sanzione. Ma qual è esattamente la proposta tedesca? Ce lo racconta l'inviato del Corriere della Sera a Berlino, Francesco Battistini. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. Cos'è successo dunque? Il dibattito è duro da qualche anno in Germania, già i grandi gruppi come Deutsche Telekom, Volkswagen hanno introdotto delle regole aziendali per evitare l'uso di email al di fuori dell'orario di lavoro, ci sono addirittura delle soglie, non oltre una mezz'ora dall'orario di lavoro. Ora è successo che dopo una proposta di qualche mese fa della ministra, l'ex ministra della famiglia, oggi ministra della difesa della CDU, von der Leyen, di appunto disciplinare questo stress, questo stress elettronico derivante dall'uso delle mail al di fuori dell'orario di lavoro, SPD e CDU, cioè i due partiti della grande coalizione tedesca, si sono accordati per una normativa che verrà discussa dopo l'estate per disciplinare in maniera molto specifica questa materia. E chi violerà queste leggi una volta stabilite? Cosa rischia? Sanzioni economiche? Dunque, la legge stabilisce dovrebbe stabilire il progetto di legge 5 punti irrinunciabili, cioè il dipendente non deve rispondere alle email fuori orario e nel caso contrario si deve far pagare lo straordinario. Poi il datore non può usare le email nel dopolavoro se non per alcune emergenze, il dipendente non è tenuto a dare all'azienda il cellulare privato, il telefonino aziendale può stare spento fuori dall'orario di lavoro e all'ultimo punto, se il dipendente si sente vessato dal datore di lavoro anche al di fuori dell'orario di lavoro, può rivolgersi al giudice e chiedere una tutela da stress, come accade per qualunque tipo di di attività diciamo invasive nell'ambiente di lavoro. Ma quanto è diffuso questo problema nella società tedesca? Cioè i tedeschi, quanti di loro staccano poi completamente quando sono in ferie e quando sono uscite dall'ufficio? Molto. Molto. C'è un'indagine che dice che l'83% dei lavoratori guarda le email subito anche all'uscita dal posto di lavoro, quando è in auto, mentre fa la spesa al supermercato, ovunque. C'è comunque una percentuale del 60% di dipendenti che resta collegato all'azienda anche di sera, cioè fino a ora tarda. Ci sono quindi stati degli interventi che sono nati soprattutto dopo il caso, forse qualcuno se lo ricorderà, dei suicidi a catena in France Telecom 4 anni fa, dove per ragioni di stress, non si capiva all'inizio le ragioni, molti dipendenti e molti manager anche erano arrivati addirittura al suicidio. Ecco, dopo quel caso si è stata aperta un'indagine nazionale, anche dopo in Francia e in Germania, per capire quanti lavoratori fossero in qualche modo stressati da questa invasione elettronica, e le percentuali hanno consigliato di correre ai ripari. Certo che il sindacato in Germania soprattutto a dire di ricevere molte proteste di lavoratori, cioè a configurare l'abuso versione 2.0 del padrone tra virgolette, e non più come una volta magari con richieste, insulti verbali, ma soprattutto con richieste implicite di portare avanti carichi di lavoro anche oltre l'orario, e il sindacato tedesco su questo è molto sensibile. È stato anche chiesto, tra l'altro, ai sindacalisti: ma siamo in anni di crisi nerissima, dove è un lusso avere il posto di lavoro? Non è un lusso occuparsi di queste cose, Francesco Battistini? Ecco, infatti sia DGB sia Fervi, cioè i due grandi sindacati che si occupano del settore servizi, hanno risposto che anzi è interesse delle aziende intervenire e prevenire questo stress. In Volkswagen, in Mercedes, nei grandi gruppi industriali tedeschi si è appurato che il dipendente stressato durante le vacanze ritorna dalle ferie più stressato e quindi meno pronto alla ripresa, quindi questo porta dei danni all'azienda. Le ore e ore perse nel compulsare freneticamente lo smartphone al di fuori dell'orario di lavoro, oltre che portare via tempo alla vita familiare, al tempo libero, tolgono il necessario riposo che soprattutto per ritmi di lavoro come quelli dei grandi gruppi tedeschi è fondamentale, perché ci sia poi un'efficienza del lavoratore. Quindi sindacati ma anche datori di lavoro sono d'accordo sul disciplinare meglio questa invasione da smartphone. Alla fine è un problema di produttività, insomma, cioè noi vogliamo che il lavoratore stia meglio perché poi rende di più. Questi sono i termini del discorso in Germania. E noi abbiamo scomodato anche un controverso scrittore americano, cara, è un noto polemista, che scrive: ormai da qualche tempo, dice lui, ho la sensazione che qualcuno giochi con il mio cervello, cioè che qualcuno stia rimappando le connessioni del mio cervello, il modo in cui io utilizzavo la memoria. La mia mente sta cambiando, perché sta cambiando il modo in cui di solito pensavo, e molti si sono riconosciuti in questo tipo di sensazione. Lo capisco, dice Carr, soprattutto quando leggo. Prima per me leggere e rimanere avvinto da un libro lungo o un articolo era facile e naturale. Ora invece mi succede raramente, perché perdo la concentrazione dopo 2 o 3 pagine. Comincio a cercare qualcos'altro da fare. In pratica, dice questo scrittore, lo stare sempre connessi non cambia solo la quantità di tempo che dedico agli altri, il mio tempo libero, la relazione, ma fisicamente e il modo di funzionare del nostro cervello, che è plastico e quindi subisce dall'essere sempre on, dall'essere sempre acceso acceso delle trasformazioni che ci possono portare in una direzione invece che un'altra, cioè al di là di stabilire se è un bene o un male, e l'essere connessi può davvero avere delle conseguenze fisiche. Lo chiediamo a un neurologo psichiatra, direttore di neuroscienze dell'ospedale Fate Bene Fratelli, professor Claudio Mencacci. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. È una domanda che si fa a questo CARI in maniera provocativa, è anche l'autore della provocazione, ma internet ci ha reso più stupidi. L'internet cambia veramente la plasticità, le connessioni del nostro cervello, il nostro modo di pensare. Lei cosa dice dal punto di vista scientifico? Assolutamente sì, le cambia, una parte della scienza e delle cure addirittura utilizzano internet per migliorare alcune capacità cognitive, e le primissime prove scientifiche le abbiamo avute da pochi mesi. Dall'altro, quello che accade è che questa accelerazione prodotta dalle tecnologie informatiche di fatto sul cervello lo mette in una condizione di continuo stato di allarme, un continuo stato d'allarme che si manifesta a sua volta in una condizione di stress patologico, e con le condizioni di stress patologico è la classica condizione di quando si studia molto e poi si è talmente in ansia che di fronte ad un esame si fa scena muta. Quando diventa eccessivo crea fino al blackout, e sono danni sia a livello cerebrale ma anche danni a livello fisico. Pensate solamente come questa condizione aumenta l'obesità e tutto quello che comporta l'obesità a sua volta a livello cardiocircolatorio, a livello di pressione arteriosa, piuttosto che una serie di condizioni di alienazione, piuttosto che di danni ad altri organi, in maniera particolare alla vista e articolare. E quindi noi stiamo parlando di una scienza che si farà sempre più strada ed è una sorta di ecologia dei media, o media se volete dirla all'anglosassone, nel senso che bisognerà fare in modo di regolamentare questa che è la tecnologia, che ovviamente cambia la società in meglio, e le relazioni a volte anche in meglio, non sempre porta all'alienazione, però che può, se abusata, se non si comincia a riflettere, portare anche a gravissimi abusi, anche in campo lavorativo, e questo, in questo la Germania ha avuto il merito di lanciare l'allarme a livello internazionale. È un'esperienza che vi tocca? Avete escogitato degli espedienti per arginare questa continua invasività di Facebook, Twitter, LinkedIn, l'email dall'ufficio, l'SMS dal capo? C'è modo di staccare, sconnettere? Capite che sia importante per voi? Spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità. 9:32, allora Berlino decide di vietare le email delle aziende oltre l'orario di lavoro, e cita la possibilità dell'eccessivo stress che poi mina la produttività. Questa è una delle preoccupazioni dei tedeschi, ma quanto in realtà avere la possibilità di vivere sempre connessi genera benefici e quanto invece pericoli? Ed è la neurologia che indaga per comprendere. Con noi il dottor Mencacci, che abbiamo disturbato proprio per capire a livello di plasticità del cervello quanto questa possa incidere. E dunque, dottore, qual è la ricetta? Come bisognerebbe comportarsi? Beh, la ricetta è questo, che tutto ciò che eccede, lei giustamente dice che deve servire e serve la tecnologia a migliorare la nostra qualità di vita, ma tutto ciò che eccede, ma soprattutto che fa sentire indispensabile il concetto di vivere tutto nel presente, tutto nell'immediato, e le mail e la rete in questo lo rappresenta benissimo, inducono quelle che oggi sono chiamate le dipendenze senza sostanza. Allora, le dipendenze senza sostanza, cioè in assenza di droga, alcol, certo, di sostanze di questo tipo. Ma il nostro cervello risponde esattamente con le stesse modalità, con gli stessi neurotrasmettitori che nel modo con il quale risponde alle sostanze, risponde così a internet e a altri strumenti che gli danno l'immediatezza del piacere. E soprattutto il concetto di essere sempre in rete vuol dire abolire completamente il concetto di spazio, ma di essere sempre presente e quindi anche di mettere in condizione di eccessiva pretesa, di una totale disponibilità dell'oggetto, quindi di avere anche ricompense in maniera immediata ed abituale, bene, e tutto questo ha delle conseguenze, perché lo stress ha delle conseguenze fisiche, biologiche. Quindi quando in Germania hanno preso questa decisione è la prima volta che le aziende entrano all'interno degli stili di vita dei propri collaboratori, e così come annunciano a loro di non bere eccessivamente, di non fumare e altre via via condizioni che possono peggiorare normalmente notevolmente la nostra salute, ivi compreso la condizione di dipendenza dalla rete, ma soprattutto da una facilitare questa dipendenza. Ora, secondo lei andrebbe fatto anche in Italia un intervento legislativo di questo tipo? Beh, non so se siamo pronti a un intervento legislativo di questo tipo, siccome è diffuso nella nostra azienda. Certo è che un uso più contenuto, ma soprattutto di creare quelle condizioni in cui tutto non avviene in situazioni di allarme, perché poi quando si va a vedere queste mail che vengono mandate sempre urgentissime, sì. Sembrano urgentissime, la stragrande maggioranza sono per conoscenza, che non servono assolutamente a nulla, ma fanno solamente sì che le persone siano ingolfate e costantemente attaccate. Questa è la stessa condizione che poi si crea con il no mobile, quando non c'è il cellulare, quando uno si sente a questo punto un Robinson Crusoe in un mondo invece circondato di persone. Grazie, rimanga con noi. Grazie. Pensate che nonostante tutto quello che sta succedendo a livello di diffusione della tecnologia, si scopre che i CD e anche i DVD continuano a essere comprati, cioè piace comunque l'oggetto, i libri ancora di più, nonostante la possibilità di scaricare musica, film e ebooks. I profeti di sventura avevano previsto la fine, il tramonto di CD, DVD, libri, e invece sopravvivono, e come, ne parleremo tra pochissimo. Intanto le vostre opinioni al 800 24 00 24. Stefano, buongiorno. Pronto? Buongiorno a voi. Da dove chiama lei? Da Roma. E cosa, da che parte sta lei? Dalla parte del capo che invia le email o dalla parte di chi le riceve? Ecco, infatti avevo chiamato proprio per questo motivo, nel senso che io vivo dalla parte del capo che invia la mail. Lavoro nel settore turistico. Sì. E il settore turistico, come immagino voi anche saprete bene, è un settore che difficilmente ha orari, soprattutto in alcuni periodi dell'anno come questo, in una città come Roma, dove il turismo è, diciamo, una punta di diamante anche dal punto di vista economico. E io sono il primo a essere bersagliato di mail, telefonate, messaggi, perché lavorando in un circuito internazionale certe volte gli orari non sono, è totalmente impossibile rispettarli. Quindi lei sta dicendo, a quel punto contatta i suoi dipendenti anche fuori orario? Ma non è tanto un fatto di contatto, ci sono delle mail che ovviamente toccano tutti i settori. Poi è quello che sentivo dal professore, che è assolutamente corretto, cioè si crea Mencacci, si crea questa dipendenza psicologica anche da parte del dipendente, che certe volte non è indotta dal capo in maniera volontaria, però le dinamiche interne aziendali ogni tanto fanno in modo che il dipendente che è fuori ufficio ha magari il timore di essere messo da parte, controlla. Sì, e controlla, perché magari ha il timore di essere messo da parte o ha paura che tornando dopo le ferie il suo posto sia stato preso da qualcun altro. Insomma, le dinamiche negli anni ne ho viste veramente tante, in 10 anni di esperienza. Ah, è una sottomissione volontaria, secondo lei, al carico di mail? Sottomissione forse un po' forte, però sì, no, diciamo è un... forse ha ragione lei, in effetti. Una sorta di sottomissione, nel senso, guardo e poi magari o non rispondo oppure rispondo direttamente a me. Sa quanti dipendenti mi guardano le mail? Sì. Non rispondono poi nel circuito di tutti, perché tutti sanno che sono in serie, ma mi chiamano e mi dicono: Stefano, guarda, l'ho letta, è la mail, non ti preoccupare. E io gli rispondo: sì, ma tranquillo. Non mi aspettavo che la leggessi tu che sei in ferie. Quindi dice: è il dipendente. E infatti stavamo parlando di questa sorta di schiavitù indotta, di questa pressione, di questo condizionamento, che il fatto fatto di essere sempre connessi, di poter essere sempre connessi, induce. Una volta per rispondere a un'email comunque dovevi camminare fino a un tavolo, collegarti a un computer, adesso te lo porti proprio in giro con te nei tuoi viaggi. Lei, Stefano, l'email più tarda che ha mandato un dipendente, cioè il dipendente che ha scomodato, lo dica, nella situazione più anomala, quando è stato e perché l'ha fatto? Quando è stato? Sì. Oddio, è capitato proprio, guardi, neanche un mesetto fa. Sì, a che ora? Ci ha chiamato, qui da noi era quasi mezzanotte. E cosa c'era di così urgente nel settore del turismo a mezzanotte, dica? Che c'era una prenotazione per un transfer in aeroporto la mattina dopo alle 5:30, sì, di un cliente che arrivava dall'Australia, e il tour operator mi ha chiamato dicendo che la prenotazione non era stata confermata e che il cliente stava prenotando con un'altra agenzia. E quindi lei ha svegliato? E io non sono riuscito a recuperare la prenotazione, avevo solo il numero di riferimento, ma non avevo la possibilità di accedere al sistema da dovero. Mentre invece alcuni nostri dipendenti, in questo caso un dipendente diciamo di un livello semifunzionario, diciamo, che ha accesso a questo tipo di prenotazione, io non l'ho trovata e ho dovuto chiamarlo per forza. Fortunatamente grazie. Non era a letto. grazie Stefano. Mezzanotte, il funzionario manager era ancora sveglio e si è ricevuto una delle tante email. Grazie a Stefano, ci ha chiamato da Roma. Milano invece che succede? Daniele, pronto? Buongiorno. Pronto, buongiorno. Sì. Senta, ma il tema è squisitamente personale, perché vede, noi siamo una società di brokeraggio internazionale. Sì. In California, quando sono le 24 in Italia, sono le 16:17 e quindi stanno chiudendo e quindi loro mandano le mail al loro orario. Quando parliamo con Taiwan, quindi alle 7 del mattino ore di Taiwan meno 7 sono la mezzanotte italiana, i taiwanesi non è che stanno a sentire se l'orario italiano sono le 7 di mezzanotte. Sì, lei dice certo, lavorando con l'estero è chiaro che... Con la globalizzazione questo è una necessità. Ma lei è un responsabile o è un dipendente, Daniele? Io sono un manager, sono un imprenditore. Un imprenditore. E quindi quando le arriva l'ordine, diciamo così, da Taiwan, perché immagino lei lavori nell'export... Sì. Lei esige che in quel momento il suo dipendente riceva sms o email per registrare quest'ordine? No, io non ne sigo niente. Allora, il problema è chi la riceve, chi è il responsabile di un determinato settore, non so, il settore dell'information technology, lui la vede, ma non è che deve scattare e guardare, se la vuol vedere, perché tanto alle 24 ore italiane non si risolve nessun problema. Quindi è inutile. Sì, sì, questo che ci segnala lei, certo, è un aspetto della globalizzazione. Allora, è vero anche che molti segnalano la possibilità di organizzarsi in uffici come il suo. Lei è un broker. In quale settore, ci può dire più o meno in quale settore opera, per cortesia? Information technology e tante altre tecnologie, ci si può organizzare in maniera tale, per esempio, che alcuni facciano dei turni col fuso orario americano, altri col fuso orario asiatico, così che le persone, soprattutto gli ultimi anelli della catena, quelli meno tutelati, non siano costretti sempre a dirsi a disposizione. Daniele, grazie per questa segnalazione estremamente moderna che ci ha mandato uno spaccato di quello che è la vita di chi opera nell'export. Roberto Manzocco, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a tutti, buongiorno. Roberto, hai sentito tantissimi stimoli. Sì. Tu sei un giornalista scientifico e saggista, sei collaboratore di Nova, del Sole 24 Ore, e ti sei sempre occupato di manipolazione genetica, nanotecnologie, transumanismo. Anzi, c'è da dire che se il cervello è plastico, tu sei nato così, perché ho scoperto che perfino alla maturità hai fatto un tema su esseri umani 2.0. Quindi no, hanno fatto un tema sul mio libro ed è stata una sorpresa, diciamo. Sì, sì, perfino alla maturità sei stato. E Roberto, ora siamo partiti da questo stimolo politico della Germania, perché quello che sembra un problema solo personale, la dipendenza senza sostanza, ci diceva il dottor Mencacci, da internet, da Facebook, da LinkedIn, da Twitter, in realtà poi dà problemi sulla produttività e dà problemi a livello psicofisico a milioni di persone. Qual è la tua posizione? Ma la mia posizione mia personale è che non, in realtà non si può parlare né bene né male di queste cose, nel senso che bisogna cercare di vederle in un'ottica un più all'insegna della complessità, nel senso che queste tecnologie rappresentano solo l'ennesimo salto, diciamo, evolutivo culturale che ci siamo trovati a fare, e come ogni salto porta dei problemi che dobbiamo imparare a gestire e che impareremo a gestire. Non so, per fare un esempio, quando si affermò la scrittura all'epoca di Platone, ci fu chi si lamentò dei gravi danni che la scrittura poteva fare agli esseri umani danneggiando la memoria. Lui stesso disse, no? Perderemo la memoria collettiva, la capacità di raccontare. Devo dire che forse aveva ragione, perché imparare a memoria è qualcosa oggi, grazie a questo nuovo mezzo, questo nuovo media che veniva demonizzato, la scrittura. Ma poi successe lo stesso con l'avvento della stampa. Con l'avvento della stampa si criticò Gutenberg e soci dicendo... adesso ci sono troppi libri, quindi non ci si focalizzerà più su nulla, ci saranno troppe cose. Un po' è vero, nel senso che il sapere si è moltiplicato, ma è ovvio, nel Medioevo uno studiava per 20-30 anni e sapeva tutto. Adesso nessun essere umano è in grado di contenere nella propria testa una percentuale anche piccola di tutto il sapere collettivo, ma questo è nell'ordine delle cose. Se il sapere si accumula è inevitabile che trascenda i limiti del nostro cervello, e noi esternalizziamo le nostre funzioni, cioè perché devo sfruttare la memoria per ricordare qualunque cosa? La esternalizzo in un libro, e quindi il libro diventa un pezzo di me. Noi ci ibridiamo in un certo senso con gli oggetti che costruiamo, gli oggetti come i libri, come le macchine elettroniche. Io a proposito di libri trovo molto interessante una ricerca che proprio è andata a contare quanti libri abbiamo oggi nell'era tecnologica. Per esempio oggi 2014 rispetto al 2010, cioè anni in cui l'ebook era già diffuso. Sai quanti libri ha in media una persona e quanti ne aveva 4 anni fa? Oggi ne ha 86 e 4 anni fa, in media, chiaramente, secondo questa ricerca inglese, ne aveva 89. Quindi sì, è vero, c'è stato un calo, ma non così consistente e sostanzioso rispetto a quanti avevano previsto la fine del libro di carta, per esempio. E anch'io vedevo all'epoca come un incubo, Dio, no, io amo i libri, sono un bibliofilo, mica me li toglierete, no? E c'è una stratificazione, in realtà, quando arriva un nuovo mezzo, questo nuovo mezzo si sovrappone agli altri, gli altri si fanno un po' in là, ma continua a rimanere spazio per tutti, ecco. Però noi stavamo parlando di un aspetto subdolo della tecnologia, cioè della possibilità di raggiungere il lavoratore, quello che non si può opporre, quello che un po' conta di meno, anche quando non si dovrebbe. Lì l'email è un po' più subdola anche della telefonata, no? Perché serve a testimoniare. Io mi sono mosso, ho mandato un'email alle 11 di sera al mio sottoposto, e il quale lui avrebbe dovuto essere a disposizione, guardarla, leggerla e provvedere a ciò che si chiedeva. C'è anche questo aspetto. C'è anche questo aspetto, ma come dire, è una cosa che impareremo a gestire. Quando arriva una nuova tecnologia, si vengono posti nuovi problemi. Gli esseri umani sono persone adattabili, prima o dopo imparano a gestire anche gli aspetti subdoli di una certa tecnologia nuova. Si impara a sviluppare strategie in modo creativo, strategie che ci permettano di sopravvivere. Ha esagerato dunque la Germania con la legge? Spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità. E dunque ci chiedevamo, esagerato intervenire addirittura a livello di legge per sanzionare quelle aziende che mandino email al lavoratore quando questo lavoratore dovrebbe essere in ferie o fuori dall'ufficio? Marco, buongiorno, pronto? Buongiorno signora. Da dove chiama lei? Da Pistoia, come sta? Tutto bene? Tutto benissimo, grazie Marco, ci dica. Senta, gli volevo dire che il problema di tutte queste email o telefonate o altre cose, quel signore che ha parlato prima ha fatto un intervento molto sensato, però secondo me riguarda proprio, il problema è che tutti nel 2014 purtroppo hanno furia, anche nel dal piccolo lavoro a quello della grande industria, o come si vuol chiamare, hanno tutti furia, e quindi un po' il problema secondo me è questo, dello stress, della furia, di consegnare il lavoro, di fare tutto questo, perché ci sono delle cose che banalmente il tuo dipendente o chi per lui, queste persone lì, lo vedi fino alle 7 la sera, gli devi telefonare alle 11 e magari lo vedi la mattina, dico io, no? Sì. Tanta urgenza e poca importanza, spesso si diceva. Tanti di questi messaggi sono urgenti e poi vai a controllare, ma nessuno di questi è così importante. La soluzione, Marco, ha esagerato la Germania a vietarle per legge? Ma no, ma la Germania non ha esagerato, non esagera nessuno, è che questo qui è un problema proprio dell'essere umano, secondo me. Vede signora, io le voglio dire una cosa sola. Al tempo dei dinosauri è cascato un meteorite sulla Terra e li ha fatti fuori tutti, no? Un escursus, mi scusi, perché questo è un tema che sì, noi non c'eravamo, comunque sì, sembra che sia andato così. E quindi cos'è? E quindi noi esseri umani, razza umana, chiamiamola come si vuole, comunque razza umana, andiamo a passi, non da maratoneta, ma molto di più, verso purtroppo quella cosa lì che è capitata ai dinosauri. L'estinzione, grazie a Marco per questo panorama, così insomma, sul futuro. Antonio Scurati, buongiorno. Buongiorno. Perché abbiamo scomodato uno scrittore? Perché ci sono tante tematiche che così rasentano la narrazione della vita quotidiana, e non solo la legislazione, non solo la modernità e la tecnologia, e voi scrittori più di altri siete abili a raccontare questo. Ha esagerato la Germania con questa volontà di regolamentare quello che per molti, anche dei nostri ascoltatori, è solo un aspetto della psiche umana? Ma io temo che più che esagerare si sia illusa, nel senso sia sul piano pratico, operativo. Lei prima giustamente parlava degli ultimi anelli della catena, dei soggetti deboli, e io per esperienza di vita vedo che questa invasività del lavoro, fuori del lavoro, colpisce soprattutto gli ultimi anelli della catena, i soggetti deboli, in particolar modo le donne. Io vedo le nostre donne, le nostre mogli, le nostre compagne, di noi diciamo 30-40 anni, che attanagliate dalla crisi e dalla perdita di diritti dei lavoratori, sono state messe a margine, sono state sottoposte al ricatto, tra, per esempio, nella scelta tra lavoro e famiglia. Questa generazione di donne sono, e che spesso non hanno contratti regolari, tutelati da diritti, e che sono colpevolizzate sul posto di lavoro, che non è un posto di lavoro garantito, dal fatto di avere dei figli e di doversi occupare anche di loro, sono assolutamente schiacciate da questa esorbitare del lavoro fuori dai propri confini. Che venendo qua proprio osservavo le donne che spingevano i passeggini anche doppi con gemelli, e stavano al telefonino, ma non credo per scelta, perché dal tono e dall'espressione del viso si capiva, e questo non stamattina alle 7, non è una scena di stamattina alle 7, però del pomeriggio spesso, che stanno facendo telefonate di lavoro, per cui devono già intraprendere questo grande peso, che però potrebbe essere una gioia continua, cioè lo stare con i bambini, ma costantemente mantenersi anche il posto al telefono. E quindi quello che dice lei, Antonio Scurati, è particolarmente vero. Questo dei diritti dei lavoratori sempre più accantonati. C'è anche chi ci segnala, stiamo tornando ai tempi, a situazioni da cinesi, e tutti possono pensare alla fabbrica, al minatore, situazioni di questo tipo. No, nell'ambito dei professionisti, nell'ambito di chi lavora in ufficio, ormai non c'è tutela, l'orario dilatato all'infinito è uno degli aspetti, e la tecnologia permette anche questo. Antonio poi Scurato. Sì, permette questo, ma poi c'è l'altro aspetto. Io prima ascoltavo Mencacci, il neurologo, usare questa categoria diagnostica della dipendenza senza sostanza. La trovo estremamente suggestiva. Se noi proviamo solo a dare una valenza metaforica a questa diagnosi, e pensiamo alla sostanza non nell'accezione tecnica della droga o dell'alcol, cioè della sostanza chimica, ma in quella filosofica, cioè al termine sostanza come substanzia, ciò che sta sotto, ciò che definisce l'essenza di qualcosa, di un individuo, della sua vita, e che regge tutte le altre, gli altri attributi. Ecco che siamo veramente solamente in presenza di dipendenze senza sostanza, perché uno degli aspetti persecutori, drammatici di queste vite sempre così divise, schizofreniche tra la cura dei bambini e le mail che ti rincorrono, è proprio di essere dipendenti prive di una sostanza, cioè prive di un'essenza, di un significato ultimo, perché come molti hanno detto in precedenza, questa enorme mole di comunicazione che il device genera da sé, questo tiranno delle nostre vite, no? Lo strumento che si impossessa di noi invece di essere posseduto da noi, è alla fine in buona parte priva di sostanza, priva di una sia di un'utilità diretta, sia di un significato, di un senso ultimo. E quindi è questa la particolare condanna che ci tocca nel versante, diciamo, del genere, di questa innovazione tecnologica che poi ne ha tanti di positivi e di ineluttabili. E che nessuno sta mettendo in discussione, non stiamo, vogliamo adesso fare appelli oscurantisti del ritorno alla pena e alla carta, assolutamente. Ma ci costringe nelle sue, diciamo, derive degeneri e degenerative, ci costringe a un affanno che però non ha scopo, che di cui si percepisce la mancanza di sostanza. Fiorenzo, buongiorno. Pronto? Sì, buongiorno. Ci spostiamo in provincia da Alessandria, devo invitarla alla sintesi, ma sì. Di cosa ci vuol parlare? Allora, di questo fatto di essere sempre collegato, secondo lei che sintomo è? Sì, da un lato racconto un'esperienza, la mia esperienza è un po' questa, perché da un lato l'utilizzo della tecnologia, se non ha uno scopo, cioè se non è per la persona, rischia di imprigionarla, se non diamo alla persona gli strumenti adeguati per utilizzare la tecnologia come utilizzerebbe un elettrodomestico. Quindi il rischio potrebbe essere quello subdolo di sentirsi sempre, come dire, importanti, ma ai fini di qualcun altro, quindi collegati a qualcuno da cui dipende. E quindi esistiamo, grazie per questa sottolineatura quasi ontologica, noi esistiamo perché siamo connessi, ce l'ha detto anche quel datore di lavoro, sono i dipendenti che mi chiamano e mi dicono guarda che l'ho visto. Antonio Scurati, grazie per questa bellissima illustrazione della nostra dipendenza, vorrei... Grazie a voi, grazie. Andate al mare tutti quanti. Andiamo al mare staccando il telefonino, sì. Questo è un suggerimento di qualcosa che si può fare, sembra così impossibile a volte. Roberto Manzocco, giornalista scientifico e saggista, tu hai scritto questo articolo bellissimo, se il cervello è always on, l'hai messo in inglese apposta, e quindi il cibo della mente è necessario, passa dalla tecnologia inevitabilmente? Oramai sì, tecnologia è il nostro ambiente naturale di adesso. No, il nostro ambiente in cui viviamo adesso e l'abbiamo costruito e ci siamo tuffati dentro e quindi ci nuotiamo e non possiamo venirne fuori, dobbiamo imparare a nuotare bene. Questo è il suggerimento principe del tuo intervento, imparare a nuotare bene, da quest'acqua non si può uscire. Grazie a Roberto Manzocco, al professor Claudio Mencacci, naturalmente grazie a tutti voi che avete partecipato anche questa mattina a Spunti di Vista, e vorrei ricordarvi gli autori di questa trasmissione, Barbara Bianchi, Luca Cremonese, grazie a loro possiamo dire andate al mare, tanto vi raggiungeremo anche là, Alessandro Casali, Anita Panizza per questa puntata e Gianmarco Ferronato in regia. Da Irene Zerbini l'appuntamento è per domani mattina alle 8:15 e l'augurio è quello di un'ottima giornata. Spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità.